Giunse l'autunno. Il tardo settembre con le sue fredde notti. Valancy e Barney furono costretti ad abbandonare la veranda, ma accesero un fuoco nel grande camino e vi si sedettero dinanzi, scherzando e ridendo. Lasciarono le porte aperte a Banjo e Good Luck, che entravano e uscivano a loro piacimento. Talvolta sedevano con sguardo solenne sulla pelle d'orso in mezzo a Valancy e Barney e altre volte si avventuravano fuori nella misteriosa e gelida notte. Le stelle ardevano nel nebuloso orizzonte al di là del vecchio Bovindo. L'ossessiva e persistente cantilena dei pini riempiva l'atmosfera. Con l'accrescere dei venti, le piccole onde iniziarono a infrangersi con delicati e singhiozzanti spruzzi sopra le scogliere sottostanti. Non sentivano il bisogno di alcuna luce, oltre a quella del fuoco, che talvolta sussultava, abbagliandoli, e altre volte li lasciava lambire dall'oscurità. Quando il vento notturno si faceva più aspro, Barney chiudeva la porta, accendeva una lampada e leggeva per lei poesia, saggi, fantastiche e misteriose cronache di antiche guerre. Barney non leggeva mai romanzi, dichiarava che lo annoiavano, ma talvolta era lei a leggerli, rannicchiata sulle pelli di lupo, ridendo placidamente ad alta voce. Sì, perché Barney non era una di quelle irritanti persone che non riescono a sentirti ridere di qualcosa che hai letto senza chiedere con tono pacato che cosa c'è di tanto buffo. Ottobre, con uno splendido sfoggio di colori attorno al Mr. Whis, nei quali Valancy si immerse con tutta l'anima. Mai aveva immaginato qualcosa di tanto meraviglioso, una grande pace colorata, cieli blu spennellati dal vento, la luce del sole assopita nelle radure di quella terra fatata. Delle lunghe giornate irreali, trascorse a percorrere i litorali con la loro canoa e a risalire i fiumi color cremisi e oro, una assopita e rossa luna piena, delle magiche tempeste che strappavano le foglie dagli alberi e le ammucchiavano lungo le sponde. Ombre di nubi in movimento, che cosa potevano avere le terre rispettose e opulente lì di fronte in paragone a tutto questo? Novembre, con il misterioso incanto degli alberi che mutavano, con i tramonti tenebrosi e rossi che si infiammavano di un nebuloso color cremisi dietro le colline a occidente, con le amabili giornate durante le quali le austere foreste mostravano la loro bellezza e la loro grazia nella serenità dignitosa di mani giunte e occhi chiusi. Giornate inondate da un sole piacevole e pallido che filtrava attraverso il tardivo e spoglio oro dei ginepri e che scintillava tra i grigi faggi, illuminando infiorescenze di muschio sempreverde e lambendo i filari dei pini. Giornate con un perfetto cielo color turchese, giornate in cui una squisita malinconia sembrava aleggiare sul paesaggio e assopirsi attorno al lago, ma anche giornate all'insegna della selvaggia oscurità delle grandi tempeste autunnali, seguite da fredde e umide notti burrascose durante le quali le risate delle streghe risuonavano tra i pini e saltuari gemiti echeggiavano tra gli alberi del continente, ma a loro che cosa importava? Il vecchio Tom aveva costruito un buon tetto e il camino tirava bene. Fuoco caldo, libri, agio, riparo dalla tempesta, i nostri gatti sul tappeto. Moonlight, disse Barney, ti sentiresti più felice adesso se tu possedessi 1 milione di dollari? No, neppure la metà. In quel caso sarei annoiata dalle convenzioni e dagli obblighi. Dicembre. Nevicate precoci e Orione, i pallidi fuochi della Via Lattea. Era davvero inverno ora, un inverno meraviglioso, freddo e pieno di stelle. Come aveva sempre odiato l'inverno, monotone, brevi, insignificanti giornate, lunghe, fredde e solitarie notti. La cugina Stickles con la schiena che doveva essere continuamente massaggiata, la cugina Stickles con i bizzarri rumori mattinieri quando faceva i gargarismi, la cugina Stickles che frignava per il prezzo del carbone, sua madre che indagava, domandava, ignorava, infiniti raffreddori e bronchiti, oh, il terrore di prenderli, l'unguento della Redfern e le pillole color porpora. Adesso invece amava l'inverno. L'inverno era bello nella landa desolata, quasi intollerabilmente bello. Giornate di pura lucentezza, serate che sembravano coppe d'incanto. La più pura annata di vino invernale. Notti infuocate dalle stelle, freddi e squisiti tramonti d'inverno, adorabili felci di ghiaccio sulle finestre del castello blu, chiaro di luna sulle betulle in un argenteo disgelo, irregolari ombre che calavano sui pomeriggi ventosi, lacerate, contorte e fantastiche ombre, grandi silenzi austeri e indagatori, incolte colline colme di gioielli, il sole che irrompeva d'un tratto attraverso le grigie nubi sopra il lungo e bianco Mistawis, crepuscoli grigio-edera investiti da raffiche di neve, durante i quali la loro accogliente sala con i folletti del focolare e gli imperscrutabili gatti diveniva ancora più accogliente. Ogni ora recava con sé una nuova rivelazione e una nuova meraviglia. Barney condusse Lady Jane nel granaio di Roaring Gables e insegnò a Valency a usare le racchette da neve, proprio a Valency che avrebbe dovuto starsene a letto con la bronchite. Ma Valency non prese neppure un raffreddore. Più avanti, a inverno inoltrato, fu Barney ad averne uno terribile e Valency si prese cura di lui, nutrendo in cuor suo il terrore di contrarre la polmonite. Ma le costipazioni di Valency sembravano essersene andate laddove andavano le vecchie lune. Il che era un bene, perché non aveva neppure l'unguento della Redfern. Ne aveva coscienziosamente acquistato uno a Port Lawrence e Barney lo aveva scagliato con cipiglio nel gelato Mistawis. «Non portare più qui quella dannata roba!» le aveva ordinato secco. Fu la prima e ultima volta che le aveva parlato con asprezza. Si avventurarono in lunghe escursioni attraverso gli squisiti silenzi delle foreste invernali, delle giungle argentee e di alberi ghiacciati e ovunque andassero trovarono bellezza. Certe volte sembravano passeggiare in un mondo incantato fatto di cristallo e perle, tanto erano bianche e radiose le radure, i laghi e il cielo. L'aria era così frizzante e pura da sembrare quasi inebriante. Un giorno restarono in piedi, in estatica esitazione, all'inizio di uno stretto sentiero che si snodava tra schiere di betulle. Ogni ramo e frasca era ammantato di neve, il sottobosco era una piccola foresta fatata ricavata dal marmo. Le ombre generate dalla luce del sole erano belle e spirituali. Andiamocene, disse Barney voltandosi, non dobbiamo commettere il sacrilegio di calpestare questo luogo. Una sera, in una distante vecchia radura, risalirono un cumulo di neve che aveva le esatte sembianze di un bel profilo di donna. Visto troppo da vicino, la somiglianza scompariva come nella fiaba del castello di St. John. Visto da dietro, era un'informe stranezza. Ma alla giusta distanza e alla giusta angolazione, il contorno era così perfetto che quando se lo trovarono improvvisamente di fronte, scintillante contro l'oscuro sfondo di abeti nello splendore del tramonto invernale, entrambi gridarono per lo stupore. C'era un basso e nobile sopracciglio, un naso dritto e di forma classica, la linea delle labbra e del mento e la curva della guancia erano modellate, come se una dea dei tempi andati avesse posato per lo scultore. Inoltre, il seno era di quella purezza talmente turgida e fredda quale soltanto il vero spirito dell'inverno poteva mostrare. Tutta la bellezza che l'antica Grecia e l'antica Roma cantavano, dipingevano e insegnavano, citò Barney. E pensare che nessun occhio umano tranne il nostro lo vedrà, sospirò Valency, che talvolta aveva l'impressione di trovarsi in uno dei libri di John Foster. Mentre si guardava intorno, le tornarono alla mente alcuni passaggi che aveva sottolineato nel nuovo libro di Foster che Barney le aveva portato da Port Lawrence, a condizione che lei non si aspettasse che lui lo leggesse o lo ascoltasse. Tutte le tinte delle foreste invernali sono estremamente delicate e sfuggenti, si rammentò Valency. Quando il breve pomeriggio si dissolve e il sole sfiora la vetta delle colline, sembra esserci ovunque nel bosco un'abbondanza non di colore, ma dello spirito del colore. In realtà non c'è niente oltre al puro bianco, ma si ha come un abbagliamento ottico di rosa e violetto, opale ed eliotropio, che assume le sembianze di una fata lungo i declivi, le vallette boschive e le curve. Sei sicuro che il colore ci sia, ma se lo guardi direttamente quello scompare. Se lo osservi con la coda dell'occhio, ti accorgi che aleggia in un punto lontano dove poco prima non c'era che una pallida purezza. Sfumature Soltanto quando il sole sta tramontando c'è un fugace momento di vero colore. Poi il rosso si diffonde sulla neve, incardina le colline, i fiumi e percuote con la sua fiamma la vetta dei pini. Soltanto alcuni minuti di trasfigurazione e rivelazione e se n'è andato. Mi chiedo se John Foster abbia mai trascorso un inverno al Mista Wis, disse Valency. È improbabile, la derise Barney. La gente che scrive fesserie del genere di solito lo fa in una casa calda di qualche tronfia strada di città. Sei troppo duro con John Foster, disse severamente Valency. Nessuno avrebbe potuto scrivere quel piccolo paragrafo che ti ho letto la scorsa notte senza avere prima visto quelle cose. Sai che non avrebbe potuto. Oh, non l'ho ascoltato, disse cupamente Barney. Sapevi che non l'avrei fatto. Allora dovrai ascoltarlo, adesso, insistette Valency e lo fece fermare con le racchette da neve mentre glielo ripeteva. È una rara artista questa madre natura che lavora per la gioia di lavorare e non per il vano spettacolo di sé. Oggi le foreste di faggi sono una sinfonia di verde e di grigio così tenue che non riusciresti a dire dove un'ombra si trasformi nell'altra. Grigi tronchi, verdi rami, muschio grigio-verde sul bianco suolo ombreggiato di grigio, eppure la vecchia zingara non ama l'assoluta monotonia dei colori. Deve avere un tocco di colore. Guarda, il ramo spezzato di un abete morto che oscilla tra i ciuffi di muschio con il suo meraviglioso bruno rossiccio. Buon Dio, impari a mente tutti i libri di quel tizio, fu la reazione disgustata di Barney mentre si rimetteva velocemente in cammino. I libri di John Foster sono tutto ciò che ha tenuto in vita la mia anima negli ultimi 5 anni, affermò Valency. Oh, Barney, guarda quella squisita filigrana di neve nei solchi di quel vecchio olmo. Quando giunsero al lago, si tolsero le racchette da neve e indossarono i pattini per arrivare fino a casa. Per fortuna Valency aveva imparato da ragazzina a pattinare sul laghetto della scuola di Deerwood. Non aveva mai avuto dei pattini tutti suoi, ma alcune delle altre ragazze le avevano prestato i loro e lei sembrava avere una naturale propensione. Lo zio Benjamin una volta le aveva promesso un paio di pattini per Natale, ma le aveva regalato delle galosce. Non aveva più pattinato da quando era cresciuta, ma riprese presto la pratica e le ore che lei e Barney trascorsero volteggiando sopra i candidi laghi e oltre le cupe isole dove i cottage estivi erano chiusi e silenziosi furono magnifiche. Quella notte svettarono giù per il Mista Wis con il vento in faccia e un'euforia che imporporò le guance di Valency. E infine, ecco la loro cara casetta sull'isola di Pini, con una coltre di neve sopra il tetto che riluceva sotto il chiaro di luna. Le finestre brillavano birichine verso di lei con sporadici bagliori. Sembra proprio la foto di un libro, ti pare? Disse Barney. Trascorsero un delizioso Natale. Nessuna fretta, nessuna corsa, nessun minuzioso tentativo di arrivare alla fine del mese, nessun pietoso sforzo di ricordare se avesse dato quello stesso regalo alla stessa persona 2 anni prima, nessuna calca per i regali dell'ultimo minuto, nessuna spaventosa riunione di famiglia durante la quale sarebbe rimasta seduta, muta e insignificante, nessuna crisi di nervi. Decorarono il castello blu con rami di pino e Valency realizzò delle piccole, deliziose e appariscenti stelle che appese tra le piante verdi. Preparò una cena alla quale Barney rese piena giustizia mentre Goodluck e Banjo afferravano gli ossicini. Una terra che riesce a fornire un'oca come questa è una terra ammirevole, decretò Barney. Viva il Canada! E bevvero in onore del Regno Unito una bottiglia di vino di Tarassaco che la cugina Georgiana aveva dato a Valency assieme alla coperta. Non si sa mai, aveva detto la cugina Georgiana con aria solenne, quando può esserci bisogno di qualche stimolante. Barney aveva chiesto a Valency che cosa desiderasse come regalo di Natale. Oh, qualcosa di frivolo e inutile, aveva detto Valency, che aveva ricevuto un paio di galosce l'anno precedente e 2 sottovesti di lana con le maniche lunghe 2 anni prima e così via, per tutta la vita. Per sua delizia, Barney le regalò una collana di perle. Valency aveva desiderato per tutta la vita di ricevere un ciondolo di perline color del latte simili a raggi di luna congelati e queste erano così graziose. Quello che la preoccupava era che erano veramente troppo belle, dovevano essere costate un bel po', almeno $15. Barney poteva permetterselo. Non sapeva assolutamente niente delle sue finanze. Si era rifiutata di lasciargli acquistare uno qualsiasi dei suoi vestiti. Aveva soldi a sufficienza per quello, gli aveva detto. Le sarebbero bastati per comprarsi tutti gli abiti di cui aveva bisogno. In un nero e rotondo contenitore, sulla mensola del camino, Barney metteva il denaro da destinare alle spese di casa. Ce n'era sempre abbastanza. Il barattolo non era mai vuoto. Valency non l'aveva mai sorpreso a riempirlo. Non poteva possedere granché, naturalmente, e quella collana. Ma Valency accantonò ogni timore, l'avrebbe indossata e se la sarebbe goduta. Era la prima cosa bella che avesse mai ricevuto. 32. Il nuovo anno. Il vecchio, logoro e sopravvissuto calendario fu tolto e fu attaccato quello nuovo. Gennaio fu un mese burrascoso. Nevicò per 3 settimane intere, il termometro scese diverse miglia sotto lo zero e vi si stabilizzò. Ma, come Barney e Valency non mancavano di puntualizzare, almeno non c'erano le zanzare. E il crepitare e lo scoppiettare del loro grande fuoco annegava l'ululato del vento del nord. Good Luck e Banjo ingrassavano e si ricoprivano in un risplendente manto di spessa e setosa pelliccia. Nip e Tuck se n'erano andati. «Ah, oh, ma torneranno in primavera», promise Barney. Non c'era modo di annoiarsi. Talvolta avevano dei piccoli e drammatici battibecchi che mai avrebbero potuto sognare di trasformare in liti. Di tanto in tanto Roaring Able faceva un salto da loro per una serata o per l'intero giorno, con il suo vecchio cappello di tartan e la sua lunga barba rossa ricoperta di neve. Di solito portava con sé il violino e suonava per loro, per la delizia di tutti, a eccezione di Banjo, che perdeva momentaneamente la testa e si ritirava sotto il letto di Valency. Talvolta Abel e Barney chiacchieravano mentre Valency preparava loro dei dolcetti, altre volte sedevano e fumavano in silenzio alla Tennyson e alla Carlyle, finché il castello blu si faceva maleodorante e Valency correva fuori casa. Talvolta giocavano a dama in silenzio con la massima concentrazione per tutta la notte. Altre volte mangiavano tutti assieme le mele renette che Abel aveva portato, mentre la gioiosa e vecchia sveglia scandiva quei meravigliosi minuti. Un piatto di mele, un fuoco in un caminetto aperto e un buon libro divertente sono un meraviglioso sostituto del paradiso, dichiarò. Barney, chiunque può avere le strade dell'oro, noi godiamoci un altro po' di Carman, poeta canadese molto amato anche dall'autrice. Adesso risultava più facile agli Stirling credere che Valency fosse morta, neppure le confuse chiacchiere sul fatto che fosse stata a Port Lawrence li avevano infastiditi, sebbene lei e Barney avessero l'abitudine di pattinare occasionalmente fin laggiù per andare a vedere un film e poi si fermassero a mangiare sfacciatamente hot dog alla bancarella all'angolo. Presumibilmente nessuno degli Stirling pensava mai a lei, a eccezione della cugina Georgiana, che aveva iniziato a restare sveglia durante la notte perché preoccupata per la povera Doss. Aveva abbastanza da mangiare, quella terribile creatura era buona con lei, stava abbastanza calda di notte. Valency aveva abbastanza caldo la notte, aveva l'abitudine di svegliarsi e divertirsi silenziosamente, avvolta dalla comodità di quelle notti invernali trascorse sulla piccola isola nei pressi del lago ghiacciato. Le notti degli altri inverni erano state così fredde e interminabili. Allora Valency odiava svegliarsi e pensare alla desolazione, alla vacuità del giorno appena trascorso e allo squallore e al vuoto di quello che sarebbe venuto. Adesso quasi si trovava a rimpiangere quella notte persa in cui non si era destata e aveva giaciuto per trascorrere una mezz'ora di pura felicità con il respiro regolare di Barney di fianco a lei e i tizzoni ardenti nel camino che dalla porta aperta le facevano l'occhiolino nell'oscurità. Era molto bello sentire il piccolo Lucky saltare sul letto al buio e accoccolarsi sui tuoi piedi mentre faceva le fusa. Banjo invece se ne restava seduto da solo di fronte al fuoco con l'espressione stizzita di un demone meditabondo. In quei momenti Banjo era tutt'altro che attraente, ma Valency amava la sua stranezza. Il lato del letto doveva trovarsi proprio a ridosso della finestra, non c'era altro posto in quella minuscola camera. Mentre se ne stava lì distesa, Valency poteva guardare fuori dalla finestra. Attraverso i rami del grande pino che ne sfioravano la superficie, il suo sguardo vagava su per il Mista Wis, bianco e lustro come un pavimento di perle, oppure scuro e terribile durante le tempeste. Talvolta i rami del pino picchiettavano contro i vetri con segnali amichevoli, altre volte Valency udiva il sibilo della neve che li investiva proprio di fianco a lei. Alcune notti tutto il mondo esterno sembrava arrendersi all'impero del silenzio, poi giungevano le notti in cui le maestose raffiche di vento si insinuavano tra i pini, notti stellate durante le quali la brezza fischiava capricciosamente e gioiosamente attorno al castello blu. Notti meditabonde in cui prima della tempesta la corrente crepitava lungo il letto del lago con un basso e lamentoso grido di minaccia e mistero. Valency sprecava innumerevoli ore di sonno perfetto in questi deliziosi momenti di intima comunione, ma al mattino poteva dormire per tutto il tempo che desiderava. A nessuno importava. Barney si cucinava da solo la colazione di bacon e uova e poi si chiudeva nella camera di Barbablù fino all'ora di pranzo. Poi trascorrevano la sera a leggere e a chiacchierare. Parlavano di tutto ciò che riguardava questo mondo e anche di molte cose che riguardavano gli altri universi. Ridevano dei loro scherzi finché il castello riecheggiava della loro gioia. «Hai una risata bellissima», le disse una volta Barney. Mi fa venire voglia di ridere soltanto per ascoltarti ridere. C'è qualcosa di particolare nella tua risata, come se contenesse molto più divertimento di quanto in realtà non riesca a esprimere. Ridevi così prima di venire sul Mista Whis Moonlight? Non ridevo mai, davvero. Avevo l'abitudine di ridacchiare come una sciocca quando sentivo che se lo aspettavano da me, mentre adesso mi viene spontaneo. Valency notò in più di un'occasione che anche Barney rideva molto più spesso di prima e che la sua risata era cambiata, era diventata più piena. Adesso udiva di rado quella nota cinica. Poteva ridere a quel modo un uomo che avesse dei crimini sulla coscienza. Eppure Barney doveva aver fatto qualcosa. Valency, seppure con indifferenza, aveva un'idea a tale proposito. Aveva concluso che fosse un impiegato di banca inadempiente. In uno dei libri di Barney aveva trovato un vecchio ritaglio di un giornale di Montreal nel quale veniva descritto un cassiere di banca inadempiente che era scomparso. La descrizione corrispondeva a quella di Barney, così come a una mezza dozzina di altri uomini che Valency conosceva, e da alcune osservazioni che aveva fatto di tanto in tanto aveva concluso che lui conosceva Montreal piuttosto bene. Valency si era fatta un'idea ben precisa nei recessi della propria mente. Barney era stato in una banca, era stato tentato di prendere del denaro per fare delle speculazioni con l'intenzione naturalmente di restituirlo. Era affondato di più, sempre di più, finché aveva compreso di non avere altra speranza che fuggire. Era accaduto a una grande quantità di uomini. Non aveva, Valency ne era assolutamente certa, mai avuto cattive intenzioni. Naturalmente il nome dell'uomo sul ritaglio di giornale era Bernard Craig, ma Valency aveva sempre pensato che Snaith fosse un soprannome, non che questo importasse. Valency trascorse soltanto una notte infelice quell'inverno. Capitò a fine marzo, quando la maggior parte della neve si era asciugata e Nip e Tuck erano tornati. Barney uscì nel pomeriggio per una lunga camminata nel bosco, dicendo che se tutto andava bene sarebbe stato di ritorno quando era buio. Poco dopo che se ne fu andato, iniziò a nevicare. Il vento si inasprì e il Mista Whis si trovò nella morsa di una delle peggiori tempeste di tutto l'inverno. Flagellò il lago e si abbatté sulla piccola dimora. Le tetre e iraconde foreste del continente guardavano Valency con cipiglio, la minacciavano scuotendo i rami e avviluppandola con la tempestosa oscurità, la terrorizzavano con il ruggito dei loro cuori. Gli alberi sull'isola si accovacciavano in preda allo sgomento. Valency trascorse la notte raggomitolata sul tappeto dinanzi al fuoco, il volto nascosto tra le mani. Quando non gettava vanamente uno sguardo oltre il bovindo, nell'inutile sforzo di vedere, attraverso il furioso pulviscolo del vento e della neve, quello che un tempo era stato l'azzurro sfumato del Mista Whis. Dov'era Barney? Si era perso tra gli spietati laghi, stava sprofondando, esausto nei cumuli di neve delle impenetrabili foreste. Valency morì un centinaio di volte quella notte e pagò a caro prezzo la felicità del suo castello blu. Quando giunse il mattino, la tempesta si placò e il mondo si schiarì. Il sole risplendette glorioso sopra il Mista Whis e a mezzogiorno Barney tornò a casa. Valency lo vide dal bovindo mentre stava girando una parte della foresta, slanciato e scuro contro il niveo mondo lucente. Non gli corse incontro. Le ginocchia le vennero meno e ricadde sulla poltrona di Benjo. Fortunatamente Benjo si dileguò in tempo, i baffi che tremavano per l'indignazione. Fu lì che Barney la trovò, la testa sepolta tra le mani. Barney! Pensavo che fossi morto, sussurrò. Barney la schernì. Dopo 2 anni nel Klondike pensavi che una piccola tempesta come questa potesse avere la meglio su di me? Ho trascorso la notte in quella vecchia baracca di legname sopra il Muskoka. Un po' fredda, ma abbastanza accogliente. Oh, Chetta, i tuoi occhi sembrano dei buchi bruciati su un lenzuolo. Sei rimasta qui seduta tutta la notte a preoccuparti per un vecchio montanaro come me? Sì, disse Valency. Io non ho potuto farne a meno. La tempesta sembrava così terribile. Chiunque avrebbe potuto disperdersi. Quando ti ho visto svoltare in quel punto laggiù mi è accaduto qualcosa, non so che cosa. È come se io fossi morta e fossi tornata in vita. Non posso descriverlo in altro modo. 33. Primavera. Il Mista Whis nero e cupo per 1 o 2 settimane. Poi, ancora una volta, di un fiammeggiante color zaffiro e turchese, lilla e rosa. Sorridente, attraverso il bovindo, carezzevole con le isole ametista, increspato sotto le brezze soffici come seta, ranocchie, piccole e verdi, maghi delle paludi e delle pozze d'acqua, il cui canto risuonava ovunque nel lungo crepuscolo e per buona parte della notte, isole fatate, avviluppate da una verde caligine, l'evanescente bellezza dei selvaggi e giovani alberi con i primi germogli. L'algida grazia delle nuove chiome dei ginepri, le foreste agghindate con fiori primaverili, delle cosine delicate e spirituali affini all'animo della natura selvaggia. Una rossa bruma attorno agli aceri, salici ricoperti di lucenti e argentei germogli setosi, nuova fioritura delle dimenticate viole del Mista Whis, il richiamo delle lune d'aprile. Pensa a quante migliaia di primavere ci sono state qui sul Mista Whis, e tutte bellissime. Disse Valency. Oh, Barney, guarda quel susino selvatico. Devo fare una citazione di John Foster. C'è un passaggio in uno dei suoi libri, l'ho riletto un centinaio di volte. Deve averlo scritto dinanzi a un albero come questo. Guardate il giovane e selvaggio susino che si è adornato, secondo immemorabile moda, con un velo da sposa di splendido pizzo. Le dita delle fate del bosco devono averlo intessuto, giacché niente del genere si è mai ottenuto con un telaio terreno. Sono certo che l'albero sia conscio della propria bellezza. Si reprime davanti ai nostri occhi come se la sua grazia non fosse delle foreste la più effimera cosa, la più rara ed estrema, giacché oggi c'è e domani non più. Ogni vento del sud, ronzando tra i rami, spargerà ovunque una doccia di sottili petali, ma che importa? Oggi lui è la regina dei luoghi selvaggi ed è sempre oggi nelle foreste. Sono certo che ti sentirai molto meglio ora che l'hai citato, disse spietatamente Barney. Qui c'è una macchia di tarassaco, affermò Valency per niente abbattuta, eppure i fiori di tarassaco non dovrebbero crescere nelle foreste. Non hanno alcun senso di adattamento. Sono troppo spensierati e soddisfatti di sé. Non possiedono il mistero e il riserbo dei veri fiori di bosco. Per dirla breve, non hanno alcun segreto, disse Barney. Ma aspetta un attimo, le foreste avranno la meglio anche su quegli insignificanti tarassacchi. Tra un po', tutto quel giallo importuno e quell'autocompiacimento scompariranno e in piena armonia con le tradizioni della foresta. Troveremo in questo stesso punto dei nebulosi globi spettrali sospesi su quei lunghi gambi. Suona come una citazione di John Foster, lo canzonò Valency. Oh, che cosa ho fatto per meritare un colpo del genere? Si lamentò Barney. Uno dei primi segnali della primavera fu la rinascita di Lady Jane. Barney le fece percorrere strade alle quali le altre auto mai si sarebbero avvicinate e si aggirarono per Deerwood con il fango che arrivava fino ai semiassi. Incontrarono diversi componenti del clan Sterling che borbottarono e rifletterono sul fatto che ora che era giunta la primavera si sarebbero imbattuti ovunque in quella coppia di svergognati. Valency, aggirandosi per i negozi di Deerwood, Incontrò lo zio Benjamin per strada, tuttavia lui si accorse soltanto 2 isolati più avanti che quella ragazza con il vestito dallo scollo scarlatto, le guance arrossate per la frizzante aria di aprile e la frangia di capelli neri sui ridenti occhi allungati era Valency. Quando ne fu consapevole, si indignò. Come osava Valency apparire così, così, così giovane? La strada del trasgressore era difficoltosa, doveva esserlo, castigata e conforme alle sacre scritture, eppure il cammino di Valency non poteva essere arduo. A guardarla non dava quell'impressione. C'era qualcosa di sbagliato, tutto ciò era abbastanza per indurre un uomo a modernizzarsi. Barney e Valency sferragliarono su verso Port Lawrence ed era ormai buio quando attraversarono di nuovo Deerwood. Giunta alla sua vecchia dimora, Valency, colta da un improvviso impulso, uscì, aprì il cancellino e si aggirò in punta di piedi fino a raggiungere la finestra della sala. Lì sedevano sua madre e la cugina Stickles, intente a sferruzzare con atteggiamento cupo e torvo, sconcertanti e disumane come sempre. Se le fossero sembrate anche un po' sole, Valency sarebbe entrata, ma così non fu e Valency non le avrebbe disturbate. Per niente al mondo.